Alessandro, piacere. Da chi preso questa passione per l'orto? Da mio papà e mio nonno, e dopo ho avuto l'occasione di trovare l'orto comunale, allora ho coltivato questa passione. Vai. Da quanto tempo coltivi? E questo è l'ottavo anno? Questo. Vai. Sempre in questo orto? Sì, sempre lì. Sì, cosa sì. Coltivi? Un po' di tutto, pomodori, insalata, spinaci, zucchine, cipolle. E... Vai, tranquillo. Ti è mai capitato che un animale ti abbia mangiato qualcosa nell'orto? Sì. Infatti io, se notate, ci ho messo sopra i teli, perché è l'unica... Cioè, questa siepe qua funziona fino a un certo punto. Dopo vengono dentro cervi, caprioli, e ti mangiano tutto. Qual è l'ortaggio che ti piace più coltivare? La zucchina, perché è comoda. Però il pomodoro mi piace di più. Dimmi. A quanti anni hai incominciato a coltivare? Ne ho 32, 24 anni. Prima l'ho fatto con mio nonno, dopo c'era dietro lui, quindi c'era altre persone che stavano dietro, io gli davo una mano e basta. Ero veramente piccolo. Dimmi. Quante volte gli dai l'acqua all'orto? Gli anni scorsi guardavo di dargli una volta al giorno, gli davo l'acqua. L'anno scorso ho continuato così fino a un certo punto. Dopo, quando è cominciato a diventare troppo caldo, ho cominciato a dare un po' meno acqua, perché più che altro non serviva, il pomodoro non riusciva a com'è che si dice, tirarla su ad assorbirla dal terreno, perché faceva troppo caldo e li bruciava le foglie, e quindi era inutile era inutile dargli da bere. Vai. E c'è la siccità anche quest'anno, come farai con l'orto? No, sicuramente vediamo se prima di tutto ci lasciano l'acqua, e piano piano gli do meno acqua da bere all'orto. Le piante, se tu dai meno acqua, con le radici cominciano ad andare in profondità, e quindi ne richiedono di meno. Dopo, se è troppo siccitoso, non c'è niente da fare, non puoi farci niente. In che periodo hai iniziato a piantare le prime piantine? Quest'anno, due settimane e mezzo fa, però io avevo già giù i spinaci, che li avevo impiantati l'anno scorso. E dopo loro ricrescono, e allora li ho già raccolti una volta e penso di raccogliere almeno altre due volte. Coltivi solo verdura o anche frutta? No, verdura. Frutta, ci sono i meloni, le angurie, però qua da noi quest'anno faceva caldissimo, e gli anni scorsi faceva troppo freddo per portarli in maturazione. Le fragole le ho a casa. Hai pensato di ombreggiare in caso che venga un caldo così pazzesco? Sarebbe comodo. Il problema è che qua c'è non è che è tanta aria, e già con un telo così te lo porta via, te lo porta in giro. Dovresti ancorarlo più stabile, e dal regolamento dell'orto non puoi impiantare cose che superano i 2 metri, 2 metri e mezzo, dovrei rileggerlo. Ecco. Ci sono altre domande? Ci parlava prima Antonio di un terreno difficile, diceva. Sì, è argilloso, pesante, e quindi sarebbe da buttarci dentro, cioè da metterci dentro sabbia per alleggerirlo. Io negli anni ci ho buttato dentro tantissima terra torba, e però non risolvi tanto il problema. Gli animali di solito, quando vengono a mangiarti le verdure, di solito hanno qualcosa che mangiano sempre o mangiano un po' di tutto? Quello che trovano, tutto, soprattutto la salata, e i strapianti li ho coperti apposta perché i strapianti gli piacciono tantissimo. Quando la verdura è alta così gli piace, dopo quando diventa grande no. Ma dopo devi ripiantarli? Sì, non crescono più. C'era il signor Antonio, diceva anche il prezzemolo mi mangia. Sì. Ma sfrutti anche l'acqua piovana? Sì, no, l'acqua piovana, quando piove noi non beverà nessuno, cioè non diamo da bere. Dimmi. Ma le piante le mangi solo tu oppure le dai alla tua famiglia? No, mangiamo tutti a casa, siamo in tre, mangiamo tutti tranquillamente. Sì. Ci sono domande? Che piante hai giù adesso? Adesso c'è giù radicchio, salata trentina, aglio, cipolle e spinaci. Le cipolle ho messo giù, non ho messo giù i strapianti, ho messo giù le cipolline perché sono meno costose, perché gli strapianti costano parecchio, insomma. Dimmi. Ma pianti semi oppure già le piantine? No, pianto tutto strapianti, guardo. Di piantare quelli, gli spinaci ho piantato i semi e ho preso la bustina, ho piantato la bustina, le cipolle ho piantato i cipollotti che praticamente sono cioè non sono i semi delle cipolle, sono le cipolle un po' più grandi del seme perché dopo le rimpianti vengono per le cipolle grandi e tutto il resto delle piante le impianto a strapianto o compro la piantina fatta perché il semenzaio, ecco, io non l'ho e a casa non ho posto per farlo e ci vuole anche tempo per starci dietro alle piantine, cioè, insomma, Antonio è in pensione, io lavoro e quindi... Sapete cos'era qua? Una volta, quando ero piccolo, grande quasi come voi, qua c'era una discarica, era una discarica comunale, l'hanno bonificata un po', hanno bonificato il più possibile, qua c'era praticamente un bosco e una discarica, ci buttavano dentro materiale e dopo hanno tirato fuori sti orti, sotto è tutto sassi, materiale, e ci hanno buttato sopra la terra